La prima innovazione è la predisposizione di un regime speciale per i contribuenti cosiddetti marginali. Circa 1 milione di piccoli imprenditori con basso giro di affari e senza dipendenti potrà scegliere di aderire, se lo riterrà conveniente, a un sistema semplificato con cui assolvere gli obblighi fiscali con un solo prelievo ad aliquota fissa. A sostanziale parità di gettito complessivo per il fisco, il risparmio in termini di costi per gli adempimenti e di tempo impiegato a tenere in regola la documentazione fiscale è enorme. Non meno importanti sono le novità in tema di tassazione per le imprese. Adottando un sistema già sperimentato con successo in Germania, viene semplificata la determinazione della base imponibile, facendola sostanzialmente coincidere con il bilancio civilistico. Mentre la base imponibile viene allargata, sono abbassate le aliquote di prelievo sia dell'IRES dal 33 al 27,5%, sia dell'IRAP dal 4,25 al 3,9%. L'IRAP diventa pienamente imposta regionale e viene eliminata dalla dichiarazione dei redditi unico. Le due misure riducono in modo sostanziale gli oneri per la gestione amministrativa del settore produttivo.